Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con gli incontri con i grandi protagonisti del cinema, della musica, della cultura. La nostra voce in scena di oggi è quella di un cantante pugliese. Nato a Molfetta nel 1973, inizia la sua carriera come rapper col nome di Mickey Mix, partecipando anche a Sanremo. Poi ricomincia con un nuovo nome d'arte e nel 2000 pubblica il suo primo album. Con brani come Fuori dal tunnel o Vengo dalla luna diventa noto anche al grande pubblico. 5 CD seguiti da poche settimane da un nuovo lavoro, esecuzione pubblica, CD più DVD del tour Il sogno eretico. Lui è Michele Salvemini, cioè Caparezza. Adesso succede, intanto questa è una specie di fotografia audio del sogno eretico, che è stato un tour fortunato, non mi posso lamentare. Me lo dicono tutti, non ti puoi lamentare. È da un po' di tempo che mi faccio bastare le cose, non mi posso lamentare perché è andato bene il tour. Non potendomi lamentare di questo tour, ovviamente per questioni relative all'affluenza, che grazie al cielo è sempre stata abbastanza alta, e soprattutto essendo molto legato e al disco del sogno eretico e ai concerti del sogno eretico, a sostegno del sogno eretico, ho voluto dare alle stampe esecuzione pubblica, che già nel nome è una provocazione, perché l'esecuzione pubblica è appunto quella che spettava gli eretici quando, insomma, non erano graditi al Vaticano e venivano bruciati in pubblica piazza. E invertendo le parole, facendo diventare una pubblica esecuzione, entriamo invece nel mondo della musica, e questa è praticamente un legame molto forte tra l'eresia e la canzone. E inoltre, all'interno del DVD ci sono anche tutti i video, vabbè, c'è anche CD audio, eccetera eccetera. La promozione finisce qui ed inizia un altro momento, perché vorrei aggiungere una postilla: i concerti del sogno eretico, che finiranno definitivamente con la mia estinzione a fine di agosto, in realtà non c'entrano una mazza con quello che vedrete nel DVD, perché sennò poi uno pensa, vabbè, tanto l'ho visto nel video registrato nel DVD recorder, non vado a vedere i concerti. No, il concerto ha un'altra scaletta, altre gag teatrali, altre follie. Il concerto per te è una forma particolare di espressione? Sì, è la forma di espressione. In realtà esistono due fasi, secondo me, nella vita artistica di una persona: quella della creazione e quella della riproduzione. Quella della creazione, ovviamente, credo un po' come tutte le persone che creano, la fase a cui sono più affezionato e che mi piace di più. È più stimolante, perché dal niente tiri fuori qualcosa che poi con molta probabilità contaminerà altra gente. Ed è anche un po'. Ed è anche divina, insomma, la creazione è divina. L'altra, quella della esecuzione, ripetizione di quell'opera, può avvenire in vari modi. Il modo più diretto è sicuramente quello del concerto, dove tra il palco, tra ciò che c'è sul palco e ciò che c'è nella platea, cioè il pubblico, non c'è il filtro, la mediazione di un supporto. Per farmi piacere questa fase, almeno quanto quella creativa, ho dovuto inserire la creatività, gioco forza, anche all'interno dello spettacolo, per cui le gag teatrali sono qualcosa di creativo, i travestimenti sono qualcosa di creativo, l'imbastitura di uno show che non sia la semplice esecuzione del brano è qualcosa di creativo, che serve a me perché mi diverte, e al pubblico, perché di conseguenza per osmosi si diverte. Di me riversa la sua foglia perversa, arriva al punto che quando mi vede spezza. Vuole mettermi sotto sto signor rotto, che si fa vanto del santo attaccato su cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto, ma c'è da dire che rispetto a quello che accade in un disco, quello che poi accade in un live è che le canzoni, i pezzi sono tuoi, ma sono anche del pubblico. Soprattutto poi alcuni pezzi che ormai sono stati più che adottati dal pubblico. E questo che effetto ti fa anche quando poi, insomma, stanno cantando con te, si sono appropriati dei tuoi pezzi. Mi fa un effetto strano, perché comunque, cioè, comunque si appropriano di una cosa mia, cioè, a chi farebbe piacere, cioè, perché non si devono appropriare, no, è un'appropriazione debita, ecco, diciamo così, non in debita. Mi fa un po' paura, perché una delle cose che io temo di più sono le aspettative. Quando esce un nuovo lavoro, c'è sempre qualcuno che storce il naso perché si aspetta da te qualcosa, no? Questo perché probabilmente, essendosi appropriato di tutto quello che hai, vuole ancora di più. Invece io tendo, insomma, un po', essendo egoisticamente una persona che scrive per sé e avendo soltanto me come punto di riferimento, da un punto di vista mi fa piacere che la gente, qualcuno senta come sua una mia canzone, però da un altro punto di vista sono intimorito, perché questo crea gli stalker. E io, essendo nato il 9 ottobre come John Lennon, ho un po' paura degli stalker. Stalker a parte, il sogno eretico è stato scritto in un momento storico. Adesso il momento storico è un po' cambiato. Tu scrivi per te, hai detto, ma guardi molto la realtà. Come ti sembra rileggere quei testi alla luce di quello che è successo dopo? E adesso cosa ti suggerisce la realtà? Diciamo che io appartengo alla categoria degli artisti che scrivono quasi sempre in reazione a qualcosa di brutto, o dispiacevole, o comunque qualcosa che urti. Difficilmente quando sono felice scrivo, cioè, di solito c'è sempre qualcosa che mi ha infastidito, che mi porta, insomma, ad anestetizzare la mia rabbia impugnando la penna come se fosse appunto una siringa e a imprimerla su un foglio, perché purtroppo o per fortuna scrivo ancora sugli A4 bianchi e non al computer. Sono del 73, fatico. Del 73 sono giovanissimi. Sì. Praticamente bambini. Praticamente infanti. Comunque niente, la realtà è la realtà per me, io non so più neanche che cosa sia la realtà, te lo giuro. Cioè, sto entrando in un meccanismo che secondo me mi fa diventare pazzo, perché penso che questa sia veramente una realtà aumentata. Nel senso che ogni volta che si tocca il fondo, in realtà poi questo fondo aumenta di livello. Io voglio sicuramente fare un passo indietro rispetto a tutta quella che può essere la critica sociale vana, cioè quella che parla in senso lato senza entrare nello specifico dell'argomento, no? Non mi interessa sentire i politici sono ladri, per esempio, una frase che sono tutti in grado di dire. Mi interessa entrare in questa frase, prendere degli elementi, magari frutto di una ricerca, e tirarli fuori, farli miei attraverso un testo. Per cui, da un punto di vista, mi sento il fiato sul collo della retorica. Perché in questo caso, quando si trattano i temi sociali, è molto facile. E dall'altro punto di vista, da un altro punto di vista, c'è un altro fiato che ho sul collo, che è quello della premonizione. Di solito, quando io scrivo, tendo ad eccedere. Faccio delle iperboli, non... Se avviene qualcosa io la estremizzo, e puntualmente quella estremizzazione, che per me era fantascienza, diventa la realtà dopo qualche mese. Questo artificio però potrebbe stancarmi, perché la ricerca di un modello espressivo è fondamentale per una persona che crea, e quindi io potrei nel prossimo disco, non dico staccarmi del tutto, ma cercare di fare qualcosa di, come direbbero i Monty Python, ora qualcosa di completamente diverso. Dal sogno eretico passa al sogno erotico e fai solo canzone d'amore? No, canzone d'amore non c'entra niente con l'erotismo, solo sentimenti, solo fuffa. Io rispetto più l'erotismo, però no, credo che io penso che mi mi farò guidare dal fanciullo che è in me. Non perché io sia un comunista mangia bambini, ma perché dentro ognuno di noi c'è quella che io chiamo isola felice, per chi l'ha avuta, un'infanzia felice. Io, grazie al cielo, avendo l'avuta, ce l'ho un po' come faro guida. Lascerò che sia questo faro un po' a guidarmi. I bambini si annoiano quando si parla di politica, no? Tranne se appunto non usi degli artifici, come può essere il già citato travestimento. Ti chiedo un'ultima cosa. Torniamo all'inizio, a quest'estate hai detto live con una scaletta completamente diversa, cosa succederà? Succederà, non lo posso dire, però per chi è abituato a vedere i miei concerti sicuramente non rimarrà deluso, perché si tratta sempre di un mega show che però non si avvale delle incredibili tecnologie dello spettacolo, ma di cose posticce che con molta fantasia bisogna identificare in qualcosa di interessante. Ti faccio un esempio molto blando. A me piace The Wall come spettacolo. Per me sarebbe stata l'ambizione massima, non potendolo fare per evidenti limiti di budget e tecnici, mi diverto a fare The Brick, il mattone. Faccio una versione piccola dove... Insomma, con i miei mezzi, insomma, cerco di divertire la gente, di farle vedere lo show oltre che farlo ascoltare. La nostra voce in scena di oggi era quella di Caparezza. Ci ritroviamo domani insieme a un altro personaggio.